Parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. Pelle nera sociale. Le uccisioni di persone afroamericane da parte delle forze di polizia che stanno avvenendo negli USA per le strade, ai posti di blocco, in semplici controlli di routine o dentro le carceri sono uno stillicidio. L'ultimo in ordine di tempo, il caso di Michael Sabby. Tra virgolette, un nuovo video shock scuote l'America, mostra almeno 6 agenti che saltano addosso a un detenuto afroamericano in una prigione tra il Texas e l'Arkansas. Michael Sabby, 35 anni, implora «non respiro, non respiro». Il giorno dopo verrà trovato morto in cella. L'episodio è già stato ribattezzato come un nuovo caso alla Eric Garner. L'afroamericano di New York, ucciso da un agente nel 2014, nonostante implorasse di mollare la stretta alla gola che lo stava soffocando. I neri e le nere sono assimilati e promossi socialmente se si integrano e si mettono la maschera bianca, se aderiscono ai valori di questa società, se sono disponibili a farsi tramite per la divulgazione dei valori dominanti. Il presidente degli Stati Uniti è nero, tanti e tanti giudici, magistrati, poliziotti, politici lo sono, ma i neri sono la maggior parte della popolazione povera e oppressa e rappresentano la stragrande maggioranza della popolazione carceraria. Vengono uccisi quotidianamente per le strade e sono socialmente emarginati a tutti i livelli, hanno i lavori più scadenti, sottopagati e senza nessuna tutela. Anche da noi ai migranti si chiede l'integrazione. Il migrante bravo è quello che abbandona i suoi valori e assume quelli occidentali, che ce la fa, che sponsorizza questa società e contribuisce a sostenere leggi securitarie, CIE, perbenismo, legalità e condanna come violenti quelli che non ce l'hanno fatta e sono rimasti in miseria e che protestano e si ribellano. Ai migranti appena arrivati si chiede di collaborare a pulire parchi, sponsorizzare il politicamente corretto, fare volontariato nei settori più disparati. Ma questo non riguarda solo le migranti e i migranti, gli afroamericani e le afroamericane, riguarda anche quelli e quelle che hanno una pelle nera sociale. È stato approvato qui da noi un decreto interministeriale, operativo dal 18 luglio 2016, che prevede che i poveri e le povere, gli emarginati senza tetto, possano accedere a qualche aiuto e sostegno, che poi tra l'altro è sempre di minima, se collaborano al sociale, se si rendono conto che devono provare a partecipare a questa società, se prendono atto della loro scarsa attitudine a concludere qualcosa di buono, se realizzano che l'unica strada che hanno è quella di rimettersi in gioco, pena le esclusione definitiva e a tutto campo. Leggo virgolettato. Il sostegno per l'inclusione attiva, SIA, è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei comuni, coordinati a livello di ambiti territoriali, in rete con altri servizi del territorio, i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Chiuse virgolette. Chiaramente bisogna essere attivi, chiedere la partecipazione, essere in possesso dei requisiti e venire inseriti in una valutazione multidimensionale del bisogno. SIC. Per il progetto sono stati stanziati 750 milioni di euro per il 2016. Quindi il problema non è dare i soldi, perché basterebbe dare un contributo a chi è al di sotto di una certa soglia di reddito. No, il problema è di ottenere la colpevolizzazione del soggetto e la sua disponibilità a fare suoi i valori di questa società. La miseria e l'infelicità vengono ridotte ad un fallimento personale o a un problema psicologico. La società sarebbe sana, sarebbero gli individui incapaci di valorizzarsi e di saperla vivere. Così è anche per noi. Le donne vengono spinte a integrarsi nei valori di questa società, a partecipare ai suoi destini, a propagandare che se una vuole e si dà da fare, può ottenere qualsiasi livello di gratificazione economica e sociale, come e meglio degli uomini. Ne deriva che questa è la società migliore possibile. E che possiamo contribuire con la partecipazione attiva e la collaborazione ad apportare ulteriori correttivi. Quelle che si vendono al patriarcato attraverso l'uso dell'emancipazione per la propria promozione personale, sponsorizzando questa società, quelle che condannano la violenza di chi si ribella, quelle che collaborano, che ne sostengono i valori, riceveranno la mancia. Vengono presentate come femministe e contribuiscono, sostenendo questo sistema, a tenere nella miseria, nella precarietà, nella soggezione tutte le altre e gli oppressi tutti. Un integrazionismo violento che trascina ogni rivendicazione nel pantano di un asservimento volontario, in una litania di querule richieste di delega e di protezione, togliendo capacità di indignarsi e possibilità reattiva. Un integrazionismo che riporta tutti alla condizione di esseri da tutelare, continuamente alla ricerca di attenzione e approvazione. Una dichiarazione di esistenza vincolata all'approvazione dello Stato e per i popoli del Terzo Mondo all'approvazione da parte della cultura occidentale neocoloniale a cui si dovrebbero affidare mani e piedi legati. È necessario riportare ad unità la lettura dei meccanismi neoliberisti, contribuire ad un'analisi della società a tutto campo che esca dai percorsi categoriali. Questo riesce ad esprimere meglio le nostre posizioni nello specifico femminista e può essere di aiuto nella comprensione delle modalità di disgregazione del sociale e del dissenso che il neoliberismo usa. Porsi fuori e contro la società del capitale a partire dal rifiuto della sua ideologia, al fine di far valere la volontà di riscatto e di liberazione degli oppressi e delle oppresse. Una pratica di riappropriazione e soddisfazione dei propri bisogni fuori e contro il lavoro salariato, i ruoli, la meritocrazia, le gerarchie, sapendo che dobbiamo fare i conti con la socialdemocrazia riformista, tutta tesa a coartare gli oppressi e le oppresse sul fronte interno e ad assoggettare con qualsiasi mezzo i popoli del terzo mondo sul fronte esterno. Ciao! Ahora echando una mirada.